Passiamo a Roma, attraversamenti multipli dal 20 al 23 di ottobre. Alessandra Ferraro, eccoci qui. Sì, dal 20 al 30 ottobre. Ecco, sono già ho sbagliato. Sono otto giorni di eventi. Iniziamo appunto, come dicevi, il 20 ottobre, giovedì, dalla Biblioteca Goffredo Mameli, e poi venerdì e sabato siamo a Centrale Presto Teatro, e la domenica Largo Spartaco. Pare che sarà bel tempo, per fortuna, perché all'aperto è una giornata dedicata ai bambini. Questa è la prima settimana, e poi la seconda ripartiamo il giovedì dalla Biblioteca Goffredo Mameli, facciamo lo stesso percorso, Centrale Presto per 2 giorni, e poi gran finale a Largo Spartaco in diciamo open air. Senti, per chi non conoscesse l'esperienza attraversamenti multipli, la raccontiamo in breve? Sì, assolutamente. Allora, intanto ci sono tutte le informazioni per chi è interessato sia a conoscere il percorso, ma anche il programma di quest'anno, si trovano sul sito, che è attraversamentimultipli.it. Poi Attraversamenti Multipli è un festival multidisciplinare che quest'anno arriva alla sua 16ª edizione, creato da Margine Operativo, che siamo un gruppo di, diciamo, multidisciplinare, un gruppo artistico che lavora sul teatro e sul video, e che dal 2001 ha creato, diciamo, questo festival, che lavora, diciamo, una delle particolarità che proprio lavora su l'intreccio tra diversi codici artistici. Quindi all'interno di tutte le edizioni, e anche quest'anno, c'è la presentazione sia di spettacoli di teatro che di danza, performance, installazioni, fumetti, presentazione di libri, street art, e una presenza che è chiaramente musicale. La proposta anche quest'anno è molto varia, quindi per pubblici anche diversi, che ognuno può trovare qualcosa che gli interessa. E l'altro elemento, che è un po' una caratteristica del festival, è che appunto si presenta in spazi e luoghi diversi. Quest'anno, l'avevo già citati prima, attraversiamo 4 luoghi diversi, e presentiamo anche dei formati differenti tra loro, per cui per esempio il 20 ottobre a Biblioteca Goffredo Mameli, da dove partiamo, c'è la presentazione del libro di Tony Bruno, un libro a fumetti, quassù La Terra è Bellissima, e un reading performativo costruito per il festival su questo libro di Tony Bruno dalla compagnia romana Nano Incidio. Quindi è la segnalo perché è un'operazione a cui teniamo molto, perché un po' anche racconta quello che è attraversamenti multi, fa incontrare artisti che magari anche prima non si conoscevano, costruire un'opera artistica appositamente per il festival e per i luoghi che la ospitano. E, diciamo, la partenza un po' al suo interno delle caratteristiche tipiche di attraversamenti, in questo caso il fumetti, che incontro il teatro e incontro, diciamo, un altro linguaggio artistico. Alessandra, gli orari di una giornata tipo del festival? Allora, non c'è una giornata tipo, nel senso che gli orari sono diversi, per questo segnaliamo sempre di andare a vedere il sito, okay, per seguire le tracce del festival. La prima giornata inizia alle 5:30 alla biblioteca, con installazione performativa di una danzatrice, con Olivia Giovannini, nel cortile della biblioteca, e poi la presentazione del libro che stavo raccontando prima, e il reading performativo dalle 18:00, e consigliamo la prenotazione perché per il reading e la presentazione del libro non c'è tantissimo spazio fisico all'interno della sala della biblioteca. Invece venerdì 21 ottobre e sabato 22 ottobre, che siamo a Centrale Presto Teatro, sono 2 eventi serali che iniziano alle 8:30, quindi dalle 8:30 sono delle performance, le performance si ripetono 2 volte, niente è sovrapposto, quindi uno se viene può seguire, diciamo, il flusso, sia ogni sera a Centrale Presto sono 2 performance e 2 spettacoli, e uno riesce, se è interessato, a vedere tutto o anche a scegliere semplicemente una cosa. Però questo, diciamo, della non sovrapposizione, anche questa è una scelta, dà la possibilità a chi viene di poter seguire tutto il programma. Mentre invece a Largo Spartaco il domenica 23 ottobre siamo dalle 4:30, ed è una giornata, come dicevo prima, dedicata ai nuovi spettatori, quindi è con degli spettacoli molto adatti per i bambini, per i ragazzi, diciamo spettacoli dai 0 ai 99 anni, quindi veramente ad ampio raggio, e presentiamo uno spettacolo di danza di Giovanna Velardi, clown, quindi danza contemporanea però per un pubblico giovane, e poi uno spettacolo invece di un ensemble che in questo momento sta facendo molte tournée all'estero, si chiama Noni Rossi, ed è uno spettacolo che unisce il teatro alla danza col nuovo circo, molto molto bello. E domenica 23 ottobre è a ingresso gratuito, come anche la biblioteca Corso Don Amelia. A Centrale Penesse c'è un biglietto comunque accessibile, sotto euro l'intero, 5 euro ridotto, e consigliamo sempre, diciamo, la prenotazione per gli spettacoli, diciamo, sia alla biblioteca che al Centrale Penesse Teatro. E la settimana successiva, diciamo, abbastanza simile, tranne che la biblioteca Goffredo Mameli, c'è la presentazione del libro Abbianto di Alberto Brunetti e un reading di Bartolini Baronio, e questo inizia dalle 5. E poi venerdì 28 e sabato 29 a Centrale Penesse, sempre serale, e domenica 30 pomeridiano. Quindi, diciamo, è un po' articolato il, però, diciamo, abbiamo un pubblico intelligente che riesce sempre a seguirci, quindi bene. non di solito nessuno per le, diciamo, le tracce del festival. Poi non so se posso raccontare un po' meglio le giornate, oppure non so i tempi che abbiamo. Ci siamo con i tempi, perché abbiamo qui uno spettacolo in studio che deve partire. Okay. I riferimenti dunque ce li hai dati tutti, ricordiamo le date, dal 20 al 30 di ottobre, attraversamenti multipli, 16ª edizione, 4 differenti luoghi, da cercare tutto sui siti e le pagine che ci hai ora detto. Sì, attraversamentimultipli.it è il sito dove trovate tutto, pure la pagina Facebook, insomma. Benissimo. Si trovano tutte le informazioni. Grazie allora. Un saluto, a presto. A te, ciao, arrivederci, ciao. A tutti, ciao.